Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. E oggi è venerdì, quindi si fa poco, giornata corta, si parla poco, si lavora poco. Ma questo lo dici si fa tu? Poco. No, lo dico tu. Dai, Drago, è possibile che sei sempre lì ansioso, che saltelli, ti mangi le unghie, ti togli le pellicine delle unghie, la onicofagia, basta. Kappa, mi conosci, sono fatto così, cosa ci posso fare? Sei abitato da un demone, devi darti una calmata. Vabbè, però devo dire che ultimamente sto migliorando, perché ho scoperto che se svuoto il frigo le due di notte mi calmo. Vabbè, interessante. Tipo, se mi faccio una tazza di latte caldo e cornflakes per cominciare, e poi continuo con due panini al prosciutto e formaggio, una banana, una fetta di torta. Ma tutto in sequenza. Il latte caldo già non ti fa... All'inizio subito, così per aprire un po' lo stomaco. Ah, aprirlo. Per chiudere lo yogurt alla banana sempre. Ecco. Io me ne sto tranquillo, riesco a dormire beatamente. Quindi, perché sei un bambino goloso. Sì, più che altro soffro di binge eating e Dio mi strafulmini se so quello che sto dicendo. Binge eating. Binge eating è così che si chiamano le abbuffate periodiche, che sono attacchi di bulimia che però non hanno nulla a che vedere con la malattia chiamata bulimia. Ah, che è una binge cosa eating. Cronica, no? Invece nel mio caso è una specie di dipendenza dalla buffata, non tanto dal cibo quanto dal gesto di mangiare, come se fossi drogato di cibo. Sì, di cibo. Sì, un gruppo di studiosi di La Jolla, vicino a Los Angeles. Sai che vedi sempre i cartelli La Jolla quando sempre giri sulle highway, no? Tutti la i giorni Jolla, quando andiamo a Los Angeles. La proprio hanno scoperto che c'è la dipendenza da cibo che è uguale, identica a quella da eroina e cocaina. Anzi, ne sono vittime soprattutto quelli che hanno già queste dipendenze. Ti guardo e questo mi spiega tante cose. Vabbè, capo, allora, nel cibo spazzatura, ad esempio, tu che sei appassionato, e anche quello dei baracchini, presente quello dei camion? Sì, ho presente. Ci sono dei componenti chimici che attivano il fattore di liberazione della corticotropina, detto anche CRF, ricordatelo. Sì, ma tanto stai dicendo delle cose che non sai. Fattore di liberazione della corticotropina. Sì. In pratica, uno che come me soffre un po' d'ansia, non appena addenta un hamburger o un panino alla piastra geneticamente modificata, sai quelle piastre dei baracchini, l'ansia sparisce e il CRF anche. È tutta questione di amigdala. Il tuo bambino cresce rapidamente. Ecco qualche consiglio per aiutarlo a crescere molto meno rapidamente. Il delicato momento della pappa. La prima pappa, all'inizio, è solo una sequenza di... Il tuo bambino per mesi si è nutrito esclusivamente di erba. Poi, d'improvviso, tutto cambia. Ed è il momento giusto per conoscere nuovi sapori. Ad esempio, pesticidi dannosi e tutti i prodotti chimici pericolosi. Così lo abitui fin da piccolo al sapore del pesce, cioè di un alimento importante, ricco di sostanze chimiche e bilische. E se rifiuta qualcosa, gliela riproporrai di formato sempre più grande e di consistenza sempre maggiore. Così puoi stare tranquilla per il futuro di tuo figlio in un mondo più problematico. Problematico. E ora, bambini, ricreazione. Oh, ricreazione, Kappa. In genere lo dico io. No, però stavolta lo dico io e sarai contento perché oggi non facciamo l'intervista e ce ne stiamo tranquilli. Ma finalmente, quanto ci hai voluto? Ci hai voluto 6 settimane, perché tu capissi. 8, però ci mettiamo qui, fumiamo una sigaretta guardando i bambini che giocano. No, ma piuttosto andiamo sull'altalena, che sigaretta. Ma adesso sei sempre lì con la mania delle cose sane. Ciao, ragazzi. Bambino ci sono, Ci sei, per cosa? Sono pronto per l'intervista. No, ma oggi niente intervista. Oggi no. Come no? No, oggi turno di riposo. No, oggi l'intervista me la dovete fare. Perché? Ho una protesta da innalzare. Vabbè, tanto per cambiare hai da protestare, cosa c'è? No, i miei buoni motivi. Voi sapete che fra un po' a Milano ci saranno le elezioni per il sindaco. Sì. E quindi qui è già cominciata la campagna elettorale. All'asilo. E l'assessore alla famiglia, per farsi bella, davanti agli elettori, ha fatto consegnare un volantino al posto del menù. Immensa. All'asilo, ma che senso ha? Ma non votate voi, cosa vuol dire? Noi no, ma i nostri genitori sì che votano. Certo che attaccarsi ai bambini dell'asilo per farsi campagna elettorale è proprio l'ultima risorsa che uno può avere. E ne hanno stampati 80.000, No, 80.000 volantini consegnati in tutti gli asili di Milano. Intanto oggi niente pranzo. Come? Perché al posto del pranzo c'era il volantino dell'assessore. Ma allora fate benissimo a protestare, lo dite ai vostri genitori. Subito, che genitori! Perché? Se lo dico a quei comunisti dei miei genitori, domani mattina loro si presentano qui incappucciati per picchettare. Ma cosa? Sì, lo dico io, quelli non aspettano altro per protestare. Però vanno bene i volantini, però almeno il pranzo doveva essere assicurato, no? Non so, vanno bene i volantini, lo dici volantini tu. E pranzo poteva essere tranquillo. Tanto io non posso mangiare niente lo stesso. Ma perché? È perché i miei genitori sono diventati vegani, no? Anche comunisti e vegani. Vegani? Hanno deciso di aderire a questa religione. Sì, vabbè, questo modo di vivere, questa filosofia. E hanno deciso che devo diventare vegano anch'io. Vabbè, tu sei piccolo, giustamente. Quindi per me è cominciato un digiuno senza fine. Sì, vabbè. Tu hai dei genitori pericolosi, però. Però non dirlo così, perché in realtà sono dei genitori progressisti. No, si dice pericolosi, non progressisti. E non posso mangiare niente, neanche la cotoletta alla milanese. Certo. Ci mancherebbe vegano. Ancora che i vegani mangiano la cotoletta alla milanese, Alberto. Sì, ma io non sono vegano. Io sono un bambino normale. Ah, i tuoi. Ma no, è solo colpa di quei maledetti comunisti di mamma e papà. Quelli sono schiavi del conformismo. Sono paroloni difficili oggi, bambino Bretella. No, Bretella, Bretella, Alberto, Berto, Bertello, Bertella, Bretella. Che associazione di parole. La prossima volta cerca di farlo un po' meglio. Infatti, okay. Comunque, qui in messa, tra le sessore che si fanno pubblicità e le regole dei vegani? Io qui non mangio niente, salto sempre il pasto. Vabbè. Fa bene, così dimagrisci un po'. Dimagrisci, non ti viene la dipendenza da cibo, che poi porta all'obesità, che poi porta all'infarto e forse anche all'ictus. Non sei contento? Ma io ho fame! I miei genitori mi hanno dato una manciata di miglio. Miglio, E io dovrei nutrirmi con quello. È buono il miglio, Ne vuoi un po'? Facciamo cambio, no? Ti do un po' di miglio e mi dai una fetta di pizza. Anche fredda. Vabbè, adesso non fa ste scene. Anche la pizza margherita la puoi mangiare, scusa. Non c'è mica la carne, quindi. Lo so, ma c'è la mozzarella. Già, i latticini, E poi la pizza è una cosa americana, per cui i miei genitori non vogliono che la mangi. Ma come la pizza è una cosa americana? Bambino Albertuccio. Vabbè, loro dicono così. Ma i tuoi genitori sono completamente pazzi, oltre che comunisti e vegani. Ma invece non è vero. Anche questa cosa contro gli americani, secondo me, è una cosa giusta. Ma perché cosa dici? I bambini sennò crescono sempre con in testa le americanate. Ho capito, Drago. Ti presento i miei, Volentieri. Sì, così magari vi organizzate un bel campeggio in Corea del Nord, con mimetica, in tenda sotto l'acqua, mangiare l'origano. Beh, almeno vi togliete dalle palle una volta per tutte. È buono l'origano, però. Cappa, guarda che non mi costa niente aggiungere un altro posto per la Corea del Nord, Ti mando lì da Kung Fu Fighting. Da chi? Da Kung Fu Fighting. No, tu vuoi dire Kim Jong-il. A me insomma quello lì, no? Magari voleva dire Kim Jong-un, che è il figlio di Kim Jong-il e nipote di Kim Il-sung. Vabbè, ha detto Kung Fu Fighting. Allora dai, noi ce ne andiamo. Allora Albertino, tanto l'intervista non dovevamo farla, quindi. Ciao. La sigaretta, poi la fine. Sigaretta, ecco qua. Ciao. Questi se ne vanno. Ma la fetta di pizza? Anche fredda, No, qui mi è rimasto solo il miglio. E allora mangio il miglio. C'ho qua il miglio, mangio il miglio. Solo che mi si infila tutto fra i denti. Era meglio la pizza, Anche fredda, Finite, adesso weekend. No, vabbè, adesso cappa, abituati, perché il venerdì c'è il predicozzo di Suor Dentona. No, il predicozzo no. Dico a me, stai zitto che adesso comincia. Shh. Cari bambini, oggi intendiamo parlarvi delle due espressioni che più spesso affiorano al vostro giovanile animo: il riso e il pianto. Ma che palle! Fai silenzio stavolta, che poi si incazza di nuovo con me. Il pianto ha una mirabile armonia col sorriso giocondo, perché v'è in quel dolore, in quel pianto, la bontà di chi sa amare e soffrire, e di chi sa commuoversi. Al pensiero fugace della vostra amata Suor Denetona, cari bambini, gli occhi vi si riempiono di lacrime, n'è vero? Ma che palle sta suora, però! Avevo ragione, gli occhi vi si riempiono di lacrime. A me di sicuro, mi prende a bastonare. E quale espressione spiacevole contiene invece in sé il riso dello sciocco, senza gentilezza, senza grazia, non gioia soave, ma il vuoto dell'animo ti fa sentire, e nell'estremo del dolore è segno talvolta d'una volgare demenza. Allora, finito no? Stai zitto. Cappa, adesso me la paghi questa. Adesso ho finito. Andate in pace. Veramente era lui. Vabbè, io non voglio più sentirlo. È il predicozzo di Suor Dentone. È obbligatorio. Però la prossima volta ti siedi tu al mio posto. Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Ma basta! Finalmente. Sì, però prima di andare bisogna ringraziare. Ah, no? Sì, certo, ringraziamo allora. I bambini Alberto Caserini, Lucia Gadolini e Guido Bertolotti. Ma anche i bambini radiofonici Margherita, Ina e Carmelo Lauricella. Torniamo tutti quanti lunedì. E mandate la vostra amigdala a chiedoasilo@radio24.it. Yeah.